Letture di Radio 24. Gli ostacoli professionali che dobbiamo affrontare ogni giorno spesso sembrano insormontabili, ma piangersi addosso può solo peggiorare le cose. Ne parla la rivista francese Courrier Cadre, che offre alcune soluzioni semplici ed efficaci per gestire la pressione e le responsabilità. A tutti noi è capitato di affrontare degli ostacoli apparentemente impossibili da superare. Una volta girati, siamo soddisfatti, anche se resta la curiosità di capire quali dinamiche ci abbiano dapprima bloccato. La rivista francese Courrier Cadre dà delle soluzioni possibili per riuscire ad affrontare nel modo corretto degli ostacoli professionali. Prima di tutto, bisogna evitare di compiangersi, poiché drammatizzare è il miglior modo per non uscirne più. La parola d'ordine potrebbe essere relativizzare l'ostacolo, capire la fonte e valutarne la reale importanza. Concentrarsi sull'essenziale, capire subito le cause e non i sintomi, mettere in atto ipotesi di soluzioni, valutazione, realizzazione e controllo. Il tutto senza perdersi d'animo e mantenendo l'umore giusto, l'approccio positivo. Non lasciatevi quindi sorprendere da stati d'animo che vi facciano vedere delle porte chiuse. Concentratevi sui punti positivi e cercate di non farvi distrarre da quelli negativi. Spesso queste sensazioni di blocco sono dovute non tanto all'ostacolo stesso, ma al vostro stato d'animo che non riesce a vedere oltre e si fa coinvolgere da distress, lo stress negativo. Quando riuscite a gestire la pressione, possiamo parlare di stress. Quando invece è la pressione che gestisce voi, si tratta di distress, considerato pericoloso sia per la vostra salute che per il lavoro che producete. Per lottare contro questa trappola è necessaria una buona igiene di vita, alimentazione sana, movimento, esercizi di rilassamento e soprattutto concentrazione su ciò che ci piace per aumentare la nostra autostima. Bisogna anche diminuire tutte le sostanze che portano eccitazione nervosa come nicotina e caffeina. E poi molto movimento. Camminare all'aria aperta è sempre più considerata una delle attività migliori per chi lavora nel settore terziario. Oltre ai consigli di stile di vita, esiste una vera e propria tecnica. Essa consiste nel fare un elenco derivante dalle situazioni della vita personale e lavorativa, ad esempio i compiti assegnati dal capo, le attività imposte dal sistema, le azioni imposte dai subordinati e gli obiettivi delle attività autoimposte. Come gestirli, per esempio? Stilare una lista dei compiti assegnati dal capo nell'ordine in cui si intendono affrontarli, definire le cose urgenti dalle importanti e, in caso di imprevisto, decidere se gestirlo immediatamente o procrastinarlo successivamente. In conclusione, sdrammatizzare significa vedere in modo diverso, con una luce che porti alla ribalta quel pezzo di esperienza il cui ricordo ci permetta di catturare un sorriso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Airoldi, Sdrammatizzare, si può imparare? Dal numero 17 novembre-dicembre 2011 della rivista Human Training.